pericolo che c'è, lo terremo a distanza. Me ne sto io da solo con te, voglio farlo prima che il cielo crolli sulla stanza. Fammi respirare solo un attimo.